5G. Ascolta e rispondi. Ti è piaciuto il concerto? Sì, mi è piaciuto. Ti è piaciuto il film? Sì, mi è piaciuto. Ti è piaciuta la lezione di oggi? Sì, mi è piaciuta. Ti è piaciuta la pizza napoletana? Sì, mi è piaciuta. Vi sono piaciuti i discorsi del presidente? No, non ci sono piaciuti. Vi sono piaciuti quei giochi? No, non ci sono piaciuti. Vi sono piaciute le nuove studentesse? No, non ci sono piaciute. Vi sono piaciute le dichiarazioni del direttore? No, non ci sono piaciute.